YouTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci insieme per le nostre due ore di RadioTube Social Village e Social Network. Abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare in queste due ore dedicate. La prima a tutto ciò che di bello c'è da vedere, ascoltare, anche leggere, ma anche i viaggi da consigliare, insomma un'ora di cose belle, diciamo così. E poi avremo la nostra solita ora di RadioTube Social Network per vedere un po' l'attualità della settimana attraverso gli occhi della rete. Ovviamente parleremo molto di fake news con degli ospiti, insomma, davvero interessanti. Beh, interessanti anche gli ospiti di questa prima ora. Io li ho appena twittati sul mio account chiocciola Marta Cagnola, è anche il mio account di Instagram. Abbiamo anche il nostro numero per gli SMS e i WhatsApp, qualsiasi cosa ci vogliate scrivere. Avete qualche domanda, vi dico, partiamo subito con le serie TV, quindi ci sono sempre un sacco di domande sulle serie TV. 349-238-6666, il numero per gli SMS e i WhatsApp. Ma visto che gli argomenti sono tanti, il tempo è sempre pochissimo, io inizierei questa puntata di RadioTube Social Village così. Il mondo è cambiato. La nostra società è cambiata. La tua irrequietezza, Filippo, deve diventare acqua passata. La monarchia è troppo fragile, sei tu il primo a ripetermelo. Un ulteriore scandalo, un ulteriore motivo di imbarazzo e tutto finirà all'aria. Chi arreca più danni alla monarchia? Io con la mia ostinatezza o tu con la tua disumanità? Il paese è diventato quasi irriconoscibile. Nonostante ciò, la monarchia continua ad agire come se non fosse successo nulla. Che cosa dovrei cambiare, secondo lei? Tutto quanto. Allora, lo abbiamo capito da questo estratto, siamo in Gran Bretagna, siamo nel Regno Unito. L'anno scorso io sono impazzita per questa serie di Netflix che è The Crown. Beh, insomma, questa settimana, ne riparleremo anche nella seconda ora, è stata la settimana del grande annuncio del fidanzamento di Harry e della splendida Meghan. Quindi siamo perfettamente nell'attualità. Sta per arrivare la seconda stagione di The Crown, ma per saperne di più, per sapere soprattutto quali sono le caratteristiche di questa serie TV, se qualcuno non avesse ad esempio visto la prima stagione e volesse nell'occasione recuperarla, prepararsi alla seconda stagione, ci colleghiamo con un'amica di RadioTube, la professoressa Daniela Cardini. Ciao Daniela! Ciao Marta, buonasera a tutti. Buonasera, allora Daniela insegna alla IULM, insomma l'abbiamo già presentata molte volte, si occupa anche con grande passione di serie TV. Questa volta posso mi permetti di segnalare che è appena uscito un tuo libro? Dai, anche perché è quasi Natale, lo faccio. Allora, ma poi sono anche i suggerimenti per i regali di Natale, Long TV, le serie televisive viste da vicino. E quindi Long TV di Daniela Cardini, per se avete gli amici appassionati di serie TV, che qua diamo anche consigli. Daniela, qual è la caratteristica di The Crown? A me è piaciuta tantissimo, non so se a te ha appassionato. Meravigliosa. L'unica parola che mi riesce di dire rispetto a The Crown è stata veramente una delle serie secondo me più belle degli ultimi 2 o 3 anni, forse anche di più. Oltretutto è stata un'operazione da parte di Netflix veramente coraggiosissima e perfettamente riuscita, quindi è un prodotto rotondo, come si dice in questi casi. Bello, rotondo, da molta soddisfazione. È una serie lunga, perché abbiamo visto la prima stagione, la seconda sta per arrivare, però ci terrà compagnia a lungo. Sì, pare di sì. Dovrebbero averne annunciate, o almeno previste, 6 stagioni, una per ciascun decennio, almeno del lunghissimo regno di Elisabetta. L'autore, leggevo recentemente che l'autore non è contentissimo, stranamente, di questa idea, perché avrebbe preferito concentrare tutto il materiale narrativo in 3 stagioni, però di fatto pare che invece le cose andranno diversamente per nostra fortuna. Se la, diciamo, la densità narrativa e la tenuta narrativa ci accompagneranno fino alla fine di queste 6 stagioni previste. Beh, alla regina Elisabetta ne sono capitate tante in 60 anni di regno, però raccontarle in 6 stagioni è lui, cioè nel senso, già la prima stagione andava estremamente nei particolari, tu l'hai trovata realistica? Perché in questi casi la preoccupazione è, riuscirò a staccarmi dalla mia idea che ho dei personaggi reali e appassionarmi alla loro messa in scena? Guarda, quello che ho visto io, cioè la risposta alla tua domanda sicuramente è sì, sono realistici, se è possibile per noi dire una cosa del genere, non conoscendo, diciamo, la realtà di questi personaggi. Non, però, andiamo abitualmente a avere il tè, no, purtroppo. No. Però ecco, credo che l'aspetto più affascinante dal punto di vista narrativo sia stato proprio la capacità di raccontare il privato di una regina in maniera credibile, senza essere né agiografico, cioè né la santificazione della regina, anzi, e allo stesso tempo mantenendosi molto distante dal gossip. Questo secondo me è il grande pregio di questa serie dal punto di vista narrativo, perché aveva un materiale incandescente da maneggiare, cioè è una cosa veramente difficile. Sì, perché poi ci sono, come hai scritto anche tu su Vita, c'è la dimensione privata e la sfera pubblica, soprattutto nel passato. Del passato noi conosciamo solo la sfera pubblica, cioè della regina Elisabetta adolescente non sapevamo nulla. Mm-hmm, esatto, è stato fatto un lavoro, devo dire, ammirevole di ricostruzione, però ecco, quello che mi colpisce e che mi aspetto, insomma, di ritrovare anche in questa attesissima seconda stagione è proprio l'attenzione alla misura, ecco, il senso della misura, che poi è un po' caratteristica, se vuoi, anche dello stile, per quanto noi ne sappiamo, insomma, della monarchia britannica, per quanto poi con queste deviazioni continue verso, appunto, verso il gossip, verso il colpi di scena. Io aspetto con ansia, come immagino anche tu e tanti di noi, l'arrivo nella storia della principessa Diana. Eh beh, assolutamente, è il momento che attendiamo tutti, però ce ne vorrà ancora, perché ce ne vorrà ancora se noi adesso saremo più o meno nel secondo decennio con la seconda stagione, secondo decennio di regno della regina, insomma ce l'abbiamo ancora. Arriva l'8 dicembre e quindi io avverto già amici e famiglia che per qualche giorno non potranno telefonarmi, sarò irraggiungibile perché mi chiuderò in casa con Netflix per vedere la seconda stagione di The Crown. Bella, bella, bellissima. No, sai qual è la verità? Adesso lo dico. Io non la guardo. L'anno scorso l'ho guardata durante le vacanze di Natale, perché secondo me è perfetta per le vacanze. Perfetta, hai ragione. Sì. È perfetta, è molto è molto dentro al clima, insomma, assolutamente. Sono d'accordo con te. Orfani di Downton Abbey, abbiamo sostituito con The Crown. Sì, sono due cose molto, per certi versi molto simili, per altre ovviamente diversissime, però il clima e l'eleganza, insomma, la nostalgia, anche se vuoi per un periodo storico, e poi proprio la delicatezza con la quale vengono raccontate alcune storie è tipica di questi due bellissimi prodotti seriali dell'ultimo periodo. Però devo dire, The Crown è un passo, secondo me, ancora più interessante, perché è proprio una sfida che Netflix ha voluto affrontare, entrando dal punto di vista produttivo in un mercato che è solitamente refrattario, quello della Gran Bretagna, ai prodotti di importazione, ai prodotti seriali di importazione, e questi signori di Netflix sono entrati in maniera decisa a casa, insomma, della monarchia britannica, parlando della monarchia britannica. Insomma, e pare veramente che piaccia addirittura alla regina. Grazie, grazie a Daniela Cardini. Ricordo anche Long TV, o Long TV come preferite, le serie televisive viste da vicino, edizioni Unicopli. Grazie alla professoressa Daniela Cardini, alla grazie prossima. A voi. Ciao, grazie Daniela. A te, Marta, baci. Alla mille. Prossima. A voi. Sì, lei è una docente universitaria, ma siccome è anche un'amica, io le do del tu, me lo perdonerete. Allora, traffico e poi ci troviamo per parlare di mostre, ma mostre molto, molto, molto particolari. Radio Tube Social Village. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Allora, io ho detto a Valeria Bernardi: scegli tu Pink Floyd, ma scegli tu High Hopes. Hai scelto bene, sono molto contenta, tanto comunque si scelga, si sceglie bene. Ma perché parliamo dei Pink Floyd? Allora, è stata presentata qualche giorno fa a Roma la versione italiana di questa mostra meravigliosa. Al Macro di Via Nizza arriva The Pink Floyd Exhibition, Their Mortal Remains. Una mostra meravigliosa. Io sono stata a vedere al Victoria and Albert Museum di Londra perché secondo me era da non perdere, e quindi tornerò a vederla a Roma. Io ingenuamente pensavo che presentata in questi giorni avrebbe aperto in questi giorni, invece bisogna aspettare perché arriverà, l'inaugurazione sarà il 19 gennaio. Ma al di là di questa mostra, questa è un po' un'occasione per parlare del fascino di queste mostre dedicate ai grandi del rock. Ce ne sono in corso, ce ne sono state, girano anche il mondo, quindi magari si legge di una mostra che è a Londra, Parigi, New York e poi arriverà anche in Italia, e ne parliamo con un altro amico di RadioTube, critico musicale, tra le tante testate anche del mattino, Enzo Gentile. Ciao Enzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Allora Enzo, come mai secondo te c'è questa... ormai è un fenomeno, è una mania, cioè Rolling Stones, David Bowie, che è arrivata qualche tempo fa a Bologna, adesso i Pink Floyd, come mai tanto interesse per queste storie? Beh, innanzitutto stiamo parlando di grandissime icone che hanno attraversato i decenni. Nei confronti di qualcuno, come dei Pink Floyd, c'è anche un senso di mancanza, proprio un deficit assoluto di dischi, di live, nonostante siano ancora molti di loro in vita, però vince la nostalgia, vince appunto questo sentirsi orfani di una grande madre musicale quali furono i Pink Floyd dal 67 oggi. Ricordiamo che sono 50 anni esatti passati dal loro esordio e non si è smaltito nulla del fascino che hanno esercitato nel tempo. Diverso è per David Bowie, che invece fu al centro di una mostra mentre era ancora in vita, anzi collaborò e contribuì moltissimo svuotando i suoi archivi, mettendo a disposizione i costumi, i disegni, insomma i materiali che poi andarono in mostra, furono prima presentati a Londra, poi girarono il mondo arrivando anche a Bologna, al Mambo, peraltro con un grande successo, in qualche modo bisogna dirlo, favorito dal fatto che Bowie era morto da pochi mesi quando la mostra arrivò a Bologna. Peraltro la mostra londinese e quella bolognese erano praticamente la stessa cosa, una sorta di ricalco, ovviamente dovendo giostrare in spazi diversi. Certo, poi vedremo cosa accadrà a Roma con i Pink, certo, Floyd, perché appunto lo spazio è da organizzare in modo diverso. Però tu mi hai segnalato che c'è qualcosa anche a Milano. Aspettando Roma si può già vedere, sì, qualcosa a Milano? Sì, sì, sì, per esempio in questi giorni, proprio oggi credo apra al pubblico, ieri abbiamo visto per la stampa, insomma per gli ospiti vari, questa mostra che si chiama Revolution dai Beatles a Woodstock. È sempre una produzione inglese, però in questo caso adattata per il mercato italiano, con qualche dubbio, molti punti interrogativi, perché parla di un periodo e di una temperie politica, ideologica, che ovviamente svolta dall'Inghilterra a noi può risultare anche parzialmente poco comprensibile. Certo. Soprattutto dal punto di vista storico, credo che questa mostra Revolution faccia acqua un po' da tutte le parti. Ci sono degli oggetti molto belli, perché sono dei manifesti della California, della psichedelia, ma ci sono anche dei palesi errori dal punto di vista proprio dell'inquadramento storico, perché esula da quel periodo che invece dovrebbe essere puntualizzato. Insomma, Revolution non mette a fuoco un periodo, invece quella dei Pink Floyd, come quella di Bowie, sono da questo punto di vista perfette, laddove non lo era quella dei Rolling Stones, che infatti non ha accontentato tutti e non a caso non arriva in Italia, nonostante i Rolling Stones siano ovviamente, i 60.000 di Lucca lo hanno dimostrato, ancora molto al centro delle attenzioni. Proprio in questi giorni esce un loro album antologico sulle registrazioni alla BBC dal 63 al 66, bellissimo. Quindi i materiali c'erano, probabilmente chi li ha ordinati con i Rolling Stones a fare da supervisori forse non hanno pensato anche a un'attitudine non solamente per i fan ma anche, diciamo, per un pubblico più ampio. Rolling Stones no, Pink Floyd e Bowie sì, e comunque questa corrente è destinata ad allungarsi, perché se i gruppi non fanno più i concerti, però il pubblico degli appassionati è ancora molto disponibile a spendere dei soldi, non solo per l'ingresso, ma per i memorabilia, che sono fortissimi in queste mostre, e credo che contribuiscano con queste elargizioni a incassi ancora importanti, laddove magari i dischi non vendono più tanto. E diciamo che i prezzi per queste mostre, ve lo posso dire, sono molto alti, perché io sono andata appunto a vederle quasi tutte in giro, e ragazzi, sono alte. Allora, intanto a Londra ha aperto My Name is Prince, la mostra ufficiale all'O2 di Londra, quindi anche Prince. Ti faccio un'ultima domanda veramente a bruciapelo, Enzo. Tu su quale italiano vedresti una mostra? Ma sarebbe bello una cosa sulla canzone d'autore, che ne avremmo motivo. Su De André è stata già fatta una mostra anni fa, molto molto azzeccata, è un peccato che abbia girato solo in alcune città. Ecco, potrebbe essere recuperata anche con quello che nel frattempo, ad esempio, l'Università di Siena è stato raccolto. Lì c'è una fondazione che lavora moltissimo. Su Gaber anche circolano alcune cose, purtroppo si tratta sempre di artisti defunti. Sarebbe bello che qualcuno dei vivi volesse raccontare anche dall'interno, dal proprio punto di vista, perché il fatto di queste mostre sta sempre proprio nella memoria storica, certo, che se ci viene spacciata da qualcuno pensando che nessuno ne sa niente, ecco che, come per Revolution, i conti non tornano. È bello pensare che molti di noi le hanno anche vissute, hanno visto i Pink Floyd, hanno visto i Rolling Stones, hanno vissuto Bowie. E quindi è bello che ci sia uno sguardo anche dall'interno, non solo dall'alto a miracol mostrare, no? Per stupire il pubblico. Sarebbe bello raccontare una storia. La canzone d'autore italiana lo meriterebbe. Certo, ci vogliono investimenti, spazi. Sono queste due condizioni che al mondo d'oggi né gli sponsor privati né le amministrazioni pubbliche credo abbiano voglia di mettere a disposizione. Ahi noi, tanto gentile e tanto onesto pare anche il nostro Enzo Gentile con queste sue meravigliose citazioni. Enzo, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi, in alto i cuori, ciao. Grazie Enzo Gentile, noi partiamo, sì, è l'ora di partire, partiamo. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Giulia, come hai detto che si chiama il posto? Forte di Bar, Stefano, per la sesta volta. Ma che, le hai contate? Allora, due mentre preparavamo la trasferta, una in macchina, una quando ci siamo fermati per il caffè, le ultime due mentre facevi uno dei tuoi spuntini. E vorrei farti notare che in due occasioni su sei stavi mangiando. E come sempre a quest'ora a RadioTube è il momento di partire per un viaggio. Stiamo scoprendo un sacco di mete interessanti ogni sabato e anche questa settimana lo facciamo con Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Ciao Marta, ciao a tutti. Dove ci porti? Allora, vi porto in un altro posto molto molto bello, molto in alto. Andiamo ad osservare il cielo e a scoprire tante cose bellissime. Siamo in Valle d'Aosta. Come sempre, Marta, l'invito è sempre lo stesso. Prima di andare in Val d'Aosta a visitare i castelli e i tanti luoghi straordinari della Val d'Aosta, dovete scaricare obbligatoriamente la nostra radioguida di Radio 24 e del Touring con tantissime informazioni. Anche sulla meta di oggi, quella che vi voglio segnalare in maniera particolare, che è l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che si trova a Lignan. E noi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo, Andrea Bernagozzi, che è ricercatore all'Osservatorio Astronomico. Ciao Andrea. Salve, grazie a voi per averci chiamato. Allora, da questa settimana succede una cosa molto interessante, molto bella. Ogni sabato di dicembre, osservazioni del cielo un po' speciali? Un po' speciali perché il cielo d'inverno è forse il cielo più bello. Noi quassù all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta tutto l'anno offriamo visite guidate ai nostri visitatori. A dicembre in particolare offriremo queste visite guidate in Osservatorio Astronomico e Planetario anche nel periodo particolare fra le feste di Natale e l'Epifania, insomma quello a cavallo delle vacanze. Ed è bello l'inverno perché? Perché il buio arriva prima, il cielo è più scuro e quindi le stelle si vedono meglio, in particolare nel cielo particolarmente buio di Lignan, la frazione del comune di Nus dove ci troviamo, perché ci sono pochi lampioni e quindi non abbiamo il disturbo delle luci artificiali per vedere la luce vera, quella bella delle stelle. Andrea, ci sono due visite però, ho letto, visite diurne e notturne. Sì, al pomeriggio dalle ore 15 alle 16 in Osservatorio Astronomico c'è la visita diurna e uno dice cosa si va? Appunto, mi ero incuriosita, infatti. Ecco, in realtà si vede la stella forse per noi più importante, che ovviamente è il nostro Sole, senza il quale non saremmo qui a parlare di Radio Tube, dell'Osservatorio certo. Astronomico e di nient'altro, perché è grazie al Sole che abbiamo tutta l'energia che ci serve per vivere. E quindi ecco che la vita diurna è in particolare concentrata sull'osservazione del Sole in maniera da poterlo guardare con uno strumento particolare che non offenda la vista, perché tutti sappiamo che la luce del Sole è così potente che non deve essere guardato direttamente. Perfetto, quindi visite diurne, visite notturne in un osservatorio inaugurato, mi sono documentata Andrea, nel 2003 e molto all'avanguardia, vero? Sì, è stato un osservatorio relativamente giovane e piccolo e prima di tutto però un centro di ricerca, anche se siamo piccoli, nella più piccola regione d'Italia, la Valle d'Aosta, partecipiamo a consorzi di ricerca nazionali e internazionali studiando tutto quello che c'è da studiare nello spazio, il sistema solare, dal Sole agli asteroidi per esempio, studiamo le stelle della nostra galassia, la Via Lattea, studiamo le altre galassie lontane. E chi ci viene a trovare partecipando alla visita diurna o a quella notturna, quindi incontra, permettetemi l'espressione, un ricercatore nel suo ambiente naturale, quindi tipo gli zoo, state attenti, non date da mangiare ai ricercatori e cose di questo genere, bisogna fare un po' di attenzione. E quindi il bello è che oltre a mostrare il cielo, il sole di giorno e le stelle di notte a chi ci viene a trovare, parliamo anche un po' della ricerca che magari è proprio in corso in quel momento in cui stiamo facendo quella visita guidata per il pubblico. Quindi cultura scientifica a chilometro zero. Una opportunità davvero straordinaria, Andrea. Immagino che ci siano anche tante famiglie, tanti bambini curiosi, ragazzini. Sicuramente non solo i bambini ci sono, ma si fanno anche notare, perché le domande che fanno sono di solito tantissime, sono le più vivaci, magari le più ingenue, ma quelle che ti costringono a pensare, perché quando ti viene chiesto dove va a dormire il sole, tu devi riuscire a trovare il linguaggio per riuscirlo a spiegare a un bambino, cioè, che magari ha 6-10 anni o anche più piccole. Che ma meraviglia, che meraviglia. Ho già voglia di scappare a guardare le stelle e anche il sole. Grazie, grazie ad Andrea Bernagozzi, ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Marta, si mangia anche benissimo in Valle d'Aosta. Certo. Io la conosco bene, la Valle d'Aosta, mi piace veramente tanto. Non trascuriamo neppure quell'aspetto del quale si parla anche nella nostra radioguida. Ah, perfetto. Al prossimo sabato. Ciao Anna Rita. Ciao a tutti. RadioTube Social Village. Ebbene, allora è il momento di parlare di musica. È uscito un disco, l'ultimo disco così atteso dell'anno. La scorsa settimana abbiamo avuto con noi Cesare Cremonini, questa settimana un'altra grande uscita, non può che essere questa. Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato Hollis Queens, ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero, con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca, la base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez, Sato Ben Nativer, Walk This Way, e quando senti il richiamo della foresta è la mia musica e la tua festa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita, oh vita. Vita era il singolo di Jovanotti, ma adesso è arrivato anche l'album. Un album densissimo, pieno di storie, storie quotidiane, storie italiane, ma anche la storia della sua vita. Ha fatto quasi un bilancio, insomma è davvero un viaggio interessantissimo, la vita di Lorenzo Cherubini Jovanotti. E questo disco cosa racconta della sua vita? Glielo abbiamo chiesto, l'abbiamo incontrato, eccolo qua. Ogni disco rappresenta il momento in cui uno fa quel disco lì, no? Per cui è chiaro che in questo momento della mia vita sono confluite tante emozioni diverse, tanti punti diversi, tante cose che sono successe. Insomma, quando avevo 20 anni ne erano successe molte meno, poi adesso ne ho 51, ne sono successe molte di più. E poi c'è questa, questo numero, questa cifra tonda, no? Che a un certo punto compare nella tua vita, tu che sei del Sole 24 Ore, poi a 51 si diventa soci di maggioranza. Sì, quindi, esatto, quindi sono diventato socio di maggioranza della mia personale, quindi mi devo prendere delle responsabilità, come dire. No? E niente, per cui a questo punto si tratta di andare avanti e di scoprire com'è questa nuova storia, da quello che è più, che non è più un figlio, no? Che è solamente un genitore, no? E così, sai, sensazioni nuove, storie nuove. Io per il carattere che ho cerco sempre poi di infondere un po' di cospargere tutte le mie pietanze di speranza, se possibile, di una visione per quanto è possibile costruttiva, no? Di affidarmi al cambiamento, alla forza del cambiamento di per sé, cioè ho questa presunzione che mi fa pensare che il cambiamento sia di per sé una cosa positiva. Non ho ragione, perché il cambiamento a volte è una cosa negativa. Non ho ragione. Dici che non vuoi avere ragione. No, non ho quasi mai ragione. Non ho quasi mai ragione, ma ormai me ne sono fatto una ragione. A proposito di cambiamento, a un certo punto dici siamo sull'orlo di una rivoluzione, ma ci credi ancora? Siamo sempre sull'orlo di una rivoluzione. Non ho detto siamo, perché siamo sarebbe troppo perentorio, no? Sempre sull'orlo di una rivoluzione. Quindi la rivoluzione, questo è un po' un concetto castrista, no? La rivoluzione permanente, cioè nel senso che la rivoluzione è una cosa viva, non è una cosa che si fa. Si fa e poi cosa fatta capo a, come dicevano i nostri vecchi, no? La rivoluzione si fa oggi, si fa domani, si fa dopodomani. E poi la rivoluzione nella musica è fatta di piccole cose, eh? Siamo sempre sull'orlo di quella rivoluzione che non avviene mai, ma che è come l'orizzonte, no? Fai un passo e l'orizzonte si sposta di un passo, ma quell'orizzonte ti permette di fare quel passo. Per cui e poi grazie al cielo io ho fatto in tempo a non essere un ragazzo degli anni 70, no? E quindi la parola rivoluzione per me non ha un'accezione in qualche modo ideologica, non ha un'accezione cupa oppure utopistica. Per me la parola rivoluzione è una parola molto leggera. Viva la libertà! Viva! Mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane. Allora, parola magica, ha parlato della rivoluzione, ma questa parola magica che torna in questo O Vita di Jovanotti è proprio libertà. La stessa cosa mi capita con un'altra parola del disco che è libertà, no? Sono parole che probabilmente se fossi un partigiano saprei esattamente di cosa riempire quella parola. L'hai vestita con una canzone molto particolare, questa libertà, una canzone quasi un inno, quasi una canzone... Mia figlia quando l'ha ascoltata mi ha detto: ah, questa è una canzone da gita scolastica. E in effetti ho detto: guarda, è perfetta, una definizione perfetta. Io in testa avevo certe canzoni che mi piacciono, tipo una canzone africana che si chiama Independence Cha Cha, che è un pezzo congolese che rappresentava proprio l'uscita dal colonialismo, ed era in realtà una canzone che faceva Independence Cha Cha, era un cha cha cha, però caricato di un significato politico in quel momento lì. Per cui a quel senso lì è una canzone mascherata, sembra una canzone romantica, però poi in realtà io sto dicendo la cosa più importante che può dire un essere umano che comunica con gli altri. Viva la libertà. La libertà, per me la libertà è un concetto, è un universo dentro al quale proprio io fluttuo come una specie di astro. È proprio importante, è un elemento importantissimo. E la felicità, a un certo punto tu parli di un'idea più realista di felicità che hai conquistato con il tempo. Ma è una canzone, io non ho un'idea di felicità e la felicità è una parola che mi imbarazza e verso la quale nutro un senso del pudore più forte di quello che nutrirei mostrandomi nudo davanti a te, cioè nel senso che la parola felicità è un tabù per me. In questo sono un po' cattolico, devo ammetterlo, nel senso che ci si sente sempre in colpa nel momento esatto in cui uno si rende conto di che in quel momento sei felice e subentra subito la sensazione di non meritartela quella cosa lì, perché io sì e gli altri milioni no, e quindi subito faccio in tempo a uscirne da quella cosa lì e a ribaltare lo sguardo. Quindi la parola felicità per me è un tabù. Nelle canzoni però i tabù sono benvenuti, e quindi l'idea più realista di felicità è semplicemente un fatto di età, nel senso che non ci può essere più una felicità completa al momento in cui ti rendi conto che le persone se ne vanno, ti rendi conto che no, che esistono le delusioni, che tu sei una delusione per qualcuno, e quindi non è più un'idea completa di felicità come quella che uno può avere quando in altri momenti, no? Quindi cerchi di andare, sei un po' più realista, insomma, ma non vuol dire meno combattivo, forse più combattivo ancora. Giorno in Italia di primavera, con quella perfetta temperatura che si resta fuori fino alla sera, la moto legata vicino al muro, a fare due chiacchiere sul futuro, miseria che splende, collana di perle, gli sguardi salutano il suo mistero, accento straniero. In Italia, in Italia, in Italia, e dove se no? In Italia. Questa di Jovanotti, sempre in Ovita, è una canzone che racconta, appunto, l'avete capito, dell'Italia. Insomma, l'Italia tra splendore e miseria, l'Italia che canta, che scappa, gode, lavora, che studia, gode, lavora. Insomma, una bellissima, un bellissimo ritratto di questo paese. Ma c'è qualcosa di particolare in questa in Italia che è proprio che arriva durante il ritornello, perché certo, in Italia e dove se no, eccolo qua. Ma sentite cosa succede? Siamo campioni del mondo come fatto assoluto, no? Per me quello lì è l'eco di quel telecronista dell'82, no? Infatti io nella canzone lo pronuncio tre volte così come lo pronuncia tre volte lui, proprio per me è una specie di meme, no? Quello lì. Ma poi non sono un fan del calcio, anche se mi dispiace tantissimo che non andiamo, perché quest'estate, l'estate dei mondiali, io sono come mia madre che si occupava dei mondiali del calcio solamente ai mondiali, no? Però ai mondiali la partita se la vedeva, ecco, io sono un po' così, ai mondiali lo seguo il calcio e devo dire che mi dispiace veramente parecchio, ma non so fare un'analisi perché non ci capisco niente. Però noi siamo campioni del mondo, mica lì, non parlo di calcio, potrebbe essere di moto, potrebbe essere di bicicletta, potrebbe essere di pattinaggio artistico, siamo campioni del mondo, Bebe è campionessa del mondo di scherma parolimpica, insomma siamo campioni del mondo, in qualche modo dentro di noi lo sappiamo che lo siamo, anche se in Russia non ci andiamo, ci andremo la prossima volta, si riapre tutto, no? No, cioè, non è un dramma da un certo punto di vista, mi dispiace un sacco, c'è un mio amico che ha un bar, era molto amareggiato, perché dice, cazzo, ma qui io ho già affittato il video, sai quelle robe lì, cioè, c'è anche un indotto, questa cosa qua dispiace, perché dispiace anche per tutto un aspetto economico, anche, ma anche festoso. Comunque l'estate dei mondiali è sempre un'estate speciale, dai. Chi afferma e chi nega, si scopre e si prega, si scioglie e si lega, si dona e si frega, si annega. La popolazione che abbia colore, in nome di un mondo che continua a girare. Brooklyn, Firenze, Milano, Trieste, Napoli, Roma, Bologna, Caracas, Catania, Ancona, San Paolo, Berlino, Montevideo, Lima, Buenos Aires, Toronto, Sydney, Roma. In Italia, in Italia, in Italia, e dove se no? In Italia. campioni del mondo. Beh, almeno in questa canzone siamo diventati campioni del mondo, ma ci ha spiegato perché Jovanotti o Vita. Allora, l'intervista in realtà che abbiamo realizzato è molto più lunga, ci sono un sacco di altri temi che abbiamo trattato con lui, la trovate sul sito del Sole 24 Ore, mi faccio dell'autopromozione, sul sito del Sole 24 Ore nella sezione video, è lì, Jovanotti è stato veramente molto carino, molto disponibile, si è prestato a parlare veramente di tanti temi con noi. Allora, adesso, traffico. E poi allacciate le cinture, non so se ci si allacciano le cinture di sicurezza, perché andiamo nello spazio. Pronti a partire? Tra poco. Radio Tube Social Village. Allora, io non lo so se quando si prende e si va nello spazio ci si allaccino le cinture di sicurezza, immagino di sì, però poi quando si è in alto, si fluttua, vabbè, insomma, siete pronti a partire insieme a me? Io direi che possiamo partire. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That one, no DJ, that was hazy. Si capisce già da queste note che siamo in tema spaziale. Allora, quanti bambini da piccoli dicono: ah, da grande voglio fare l'astronauta? Quanti di quelli che stanno andando a comprare regali di Natale devono andare a comprare navicelle spaziali, astronavi giocattolo? Beh, c'è un bambino che chissà se da piccolo sognava di fare l'astronauta, l'ha fatto davvero, e io sono molto contenta perché ci colleghiamo proprio con, insomma, dall'altra parte del mondo, andiamo a trovare un uomo dai superpoteri veri, perché lui davvero è andato nello spazio e abbiamo approfittato del fatto che ha scritto la sua autobiografia, che si intitola ovviamente Volare, perché più volare di lui, insomma, è impossibile. Sono molto molto molto contenta di prendere una navicella spaziale virtuale e di andare a trovare Luca Parmitano. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Astro Luca, chiocciola astro trattino basso Luca. Luca, come mai hai raccontato questa tua storia? Beh, sono 166 giorni insieme a te, ma tutta una vita per arrivare a questi giorni nello spazio. Beh, il motivo per cui ho raccontato è che ho pensato che fosse una storia che valeva la pena condividere, perché la mia filosofia è che se qualcosa vale la pena di dirla, allora è giusto dirla, altrimenti è meglio zitti. In questo senso la mia non è un'autobiografia, è semplicemente un racconto, il racconto di quei giorni in orbita, nella missione Volare, che è anche il nome della missione che dà il titolo al libro di fatto. E poi la nuova edizione, che è uscita proprio in queste settimane, è allargata con un prosieguo che idealmente è collegato alla missione, perché è venuto immediatamente dopo e subito prima dell'inizio di una nuova avventura per me, che è in questo momento in corso. Quindi l'ho allargata con quello che è successo dopo, con le avventure sottoterra, con le avventure sott'acqua. Tu hai fatto anche l'acquanauta, insomma, ti tocca esplorare a tutto tondo, non solo nello spazio. Ma è importante comprendere che il lavoro di un astronauta è soltanto in minima parte realizzato in orbita, perché dati tempi di addestramento e anche i costi, anche il numero di persone limitatissimo che possono andare a bordo della stazione, un astronauta alla fine passa forse il 5-10% del suo tempo in orbita. Quindi tutto il resto del tempo dobbiamo tenerli impegnati gli astronauti. Quindi ecco che noi siamo utilizzati per fare sperimentazione, per fare sviluppo, per fare esplorazione. E quindi ho avuto il privilegio di essere il comandante della 20ª missione NIMO, che è una spedizione organizzata dalla NASA sott'acqua, a 20 metri sott'acqua, in un habitat unico, è l'unico che esiste al mondo a largo della costa della Florida, è questo Aquarius. E lì per 2 settimane, insieme ad altri 3 colleghi, siamo stati sott'acqua a fare analogie, sperimentazione di quello che potrebbe essere la vita su un habitat extraplanetario, quindi su Marte ad esempio, ma anche sulla Luna. Questo fa capire a tutti coloro che stanno sognando di fare l'astronauta da grandi che il lavoro è tanto. A proposito di quelli che hanno questo sogno, pensi molto anche ai ragazzi più giovani? Hai anche pensato a una borsa di studio collegata al tuo progetto? È una cosa molto importante. Per me è importantissima, perché è un modo di restituire. Io sono certo e consapevole di aver avuto tanto, di essere un privilegiato per molti versi, e quindi i proventi del mio libro vanno a una borsa di studio per uno studente meritevole che potrà andare per un anno all'estero, così come è già successo, ne abbiamo già assegnata una proprio quest'anno, il vincitore è in questo momento in Cina a fare uno scambio, un ragazzo bravissimo di 16-17 anni. E quindi anche per questa nuova edizione i proventi andranno per una borsa di studio per un ragazzo meritevole, cosa che ho fatto anch'io quando avevo 16 anni, ho vinto una borsa di studio, sono stato un anno all'estero ed è un'esperienza che mi ha cambiato la vita e vorrei in qualche modo restituire proprio ai ragazzi, che sono gli utenti più importanti di quello che noi facciamo della scienza e della tecnologia. Ma a proposito di quello che dicevi prima, per chi sogna di fare l'astronauta, devo assolutamente fare una piccola correzione. All'inizio, durante la presentazione, sembra quasi di presentare un uomo con i superpoteri o un superuomo. Ecco, ci tengo veramente a dirlo, ma con sincera umiltà, che gli astronauti sono persone normalissime, assolutamente normali, e hanno il privilegio di poter fare cose straordinarie grazie al pubblico che ci sostiene, che con le tasse, con le agenzie spaziali ci permette di fare il nostro lavoro, ma siamo veramente persone normali ed è importante scendere da questo piedistallo e comunicare alla gente allo stesso livello, noi siamo come loro. Beh, devo dire che noi amiamo vedervi come grandi esempi, anche perché ci fate sognare. Devo chiederti ancora 2 cose. Una, il fatto che stai lavorando, ti stai addestrando di nuovo, perché non è finita, perché ci sono altre avventure adesso. Certo, no, sono al momento in addestramento come equipaggio di backup per una missione che partirà l'anno prossimo. Anche questa volta sarò il backup di un canadese, David Saint-Jacques, che è un astronauta poco più anziano di me, che vola per la prima volta e che è un medico, è un astronomo, è un pilota, quindi mi aspetto veramente di poter godere della sua permanenza in orbita. E poi, se tutto andrà bene, anch'io avrò la mia possibilità di tornare in orbita qualche mese dopo. Senti, l'ultima domanda, concedimi, è un po' scema. Tra una decina di giorni esce Star Wars, ma tu li vai a vedere i film di fantascienza da astronauta? Li vado. Non è assolutamente una domanda scema, anzi. Mi fa piacere che me lo chiedi, perché io sono un appassionato di fantascienza e in particolare di guerre stellari e Star Wars, perché da piccolo, ma da piccolissimo, avevo un poster di guerre stellari e chiaramente Luke Skywalker, io mi chiamo Luca, quindi io sognavo di poter un giorno pilotare un X-Wing Fighter o una delle astronavi bellissime di Star Wars. La cosa più vicina che ho fatto è quella di volare su una Soyuz, che non ha proprio la dinamicità di una delle astronavi della fantascienza, ma mi porta sulla stazione, quindi sono estremamente contento di poterlo fare. Ma ho amato tantissimo The Martian, Interstellar, tutta la biblioteca di Asimov e i libri di fantascienza, alcuni dei quali ho letto decine e decine di volte. Che meraviglia, che meraviglia. Allora davvero la fantascienza vista agli occhi di un astronauta, questo è molto affascinante. Allora grazie a Luca Skywalker Parmitano per essere stato con noi. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie a voi, grazie del vostro tempo e grazie a tutti gli ascoltatori per avermi ascoltato in questi minuti. Grazie tantissimo. Allora, io ricordo ancora Volare, questo libro affascinantissimo di Luca Parmitano, e anche il fatto che dia la possibilità a tanti giovani di seguire le sue orme è veramente una cosa importantissima. Grazie Luca, a presto. A presto a tutti. Vabbè, non potevamo non salutare Luca Parmitano così. Allora lui dice: non siamo dei Superman, però ragazzi, fanno di quelle cose, ma veramente fuori dal comune, diciamolo così, anche se sono scienziati e non supereroi. Allora, ringraziando Luca Parmitano, io vi do l'appuntamento a tra poco, dopo il giornale radio delle 17, perché parleremo di tanti, tanti argomenti nel nostro RadioTube Social Network.